Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 31 agosto, buongiorno da Antonella Cortese a tutti e a tutte, in particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e al carcere della Dozza. E bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV, il nostro programma in onda su Radio Città Fugico, Lepida TV e Teletricolore. Abbiamo con noi Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che condurrà ancora per qualche giorno con me e Caterina questa trasmissione. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a te e a tutte e a tutti. Ignazio, continuiamo con le lettere dal carcere o con qualcosa di diverso oggi? Sì, sono lettere dal carcere, ma in forma di poesie. Sono state pubblicate in questo libro, lo faccio anche vedere. Come si chiama il libro, scusami? Il canto di Iemagia, poesia dal carcere, visto che è stato pubblicato, possiamo dire anche l'autrice, che conosco molto bene, un'amica fin dall'inizio del progetto di Eduradio TV, Sonia Maria Bracciale. Alcune poesie sono straordinarie. Una, la prima che vi leggo, dà tutta la profondità del dolore della vita in detenzione. Ascoltate. Quanto rumore, c'è chi parla e chi urla dietro a dei quadrati, c'è chi si lava e chi pensa al suo dolore. Quanto rumore inutile, perverso, insolito, una donna si affaccia, mi guarda, percepisco il suo dolore e la paura. Ha solo 68 anni, prima volta, mi racconta, non la sento, si sfoga, non la sento. Chiedo, vuole fumare? Quanto dolore, chiuso in quattro mura. Riesco a scorgere lo sguardo e sento perquisizione. Ah, queste mura, piene d'angoscia, paure, ipocrisie, bugie, gelosie, quanto dolore. E tu, che sei al di là, ignaro, incredulo, non immagini, non percepisci, non sai che vivo questa realtà mai vissuta, puoi raccontare e cercare di far capire quanto dolore dietro a queste mura. Ignazio, è possibile che non ci sia uno sprazzo di luce, qualcosa che illumini minimamente questa situazione di forte dolore? No, sicuramente c'è, noi testimoniamo questo, cioè, poi la Costituzione dice che il carcere deve essere per la rieducazione, per la risocializzazione, non per far star male le persone. E quindi tutte le attività educative, il teatro, la scuola, la musica, tutto ciò che si fa danno spazio anche di sorriso, così. E in qualche modo lo si trova, emerge in un altro testo, un'altra poesia di Sonia Maria Bracciale dal titolo Arcobaleno. Ascoltate. Seduta davanti a questo blindo con la mia sigaretta, le prime ore del mattino, il fumo si fonde trasformandosi, mi fa vedere attraverso questo corridoio altre celle. Il mio sguardo va al di là di ogni confine, asciugo le mie lacrime. Questo foglio bagnato a un tratto, come per incanto, davanti a me l'arcobaleno. Sogno o son desta? Il rimbalzarsi di colori, l'eco, l'estendersi dei prati tra i campi, spazi aperti, le mille sfumature, colori, colori, e tra spazi verdi festanti ballano i fiori. Speranza, utopia. A un tratto, come per incanto, la realtà, un tintinnare di chiavi, i passi mi portano a sentire, e seduta davanti a questo blindo, con la mia sigaretta consumata, svanisce l'arcobaleno. Ignazio, questa idea dell'arcobaleno dà proprio l'immagine dell'illusione, di qualcosa di illusorio che passa. Sì, in questo senso anche tutte le attività che si fanno in carcere hanno questa sensazione tante volte che non si riesce a costruire nulla. E questo io dico alle persone che ci stanno ascoltando, molte dalle loro camere di detenzione, non è vero, guardate che tutto quello che voi fate per la cultura, per scrivere, per l'università, è una semina che serve per uscire. E ancora per chiudere, la Sonia dice così, oggi la vita mi ha regalato un altro giorno intento a farmi sentire viva in questo posto, difficile ricordare la vita. E poi un ultimo verso, una poesia che ha per titolo Senza titolo, oltre ogni pensiero, oltre ogni tramonto, oltre ogni attimo infinito, oltre ogni limite, oltre le sbarre, il mio pensiero infinito. Questo è veramente il messaggio di Sonia Maria Bracciale, una persona detenuta che parla di un'esperienza vera, ma che dice che le sbarre non sono mai l'ultima parola che si può dire su una persona. Ogni persona, anche chi ha commesso l'errore più grave, è sempre più infinito di quelle sbarre. Grazie Ignazio, e soprattutto grazie a Sonia per i bellissimi versi che ci ha regalato. Che cosa vogliamo ascoltare? Allora, propongo per Sonia e per tante sue compagne che sono invece che vengono dall'Africa, sono tante purtroppo, e anche i compagni di detenzione, USA for Africa, We Are the World. Ok, ascoltiamola. E rieccoci insieme. Il martedì lo abbiamo un po' destinato al viaggio e oggi andiamo in una città che è in Algeria e si chiama proprio Algeri. Sapete che tra l'altro mi piace attaccare con una citazione letteraria, per cui vi voglio leggere qualcosa. C'è la bellezza e ci sono gli oppressi. E per quanto difficile possa essere, io vorrei essere fedele ad entrambi. E indicando nell'integrazione tra letteratura e storia un'altra ardua, se non impossibile, conciliazione. Queste parole le ha scritte il premio Nobel Albert Camus, algerino in Francia e un po' francese in Algeria. E l'Algeria è il più grande stato del continente africano da quando il Sudan si è diviso tra nord e sud e nonostante le sue dimensioni, perché insomma è un territorio molto vasto, ha una popolazione di appena 36 milioni di abitanti, una densità di 16 persone per chilometro e questo è dovuto ovviamente alla grandissima porzione della sua superficie che è completamente immersa nel deserto del Sahara. E giusto per fare un confronto con l'Italia, in Italia vivono quasi 61 milioni di persone con una densità di 202 abitanti per chilometro. Un dato assolutamente incredibile per noi è soprattutto quello relativo al fatto che il 70% della popolazione in Algeria ha meno di 30 anni. quindi è veramente molto giovane. E la stragrande maggioranza della popolazione vive soprattutto nella parte sulla costa del Mediterraneo, quindi a nord del paese, dove si trovano anche le città più europeizzate dalla colonizzazione francese. E, c'è chiaramente una tradizione berbera, araba e francese che si mescola più o meno armoniosamente, ma è interessante vedere anche proprio l'architettura di queste città che hanno subito tutte queste trasformazioni, ma anche proprio diciamo nelle finestre, nella disposizione delle vie. È veramente qualcosa di molto affascinante. Però da un altro punto di vista non bisogna dimenticare che la Francia ha massacrato e oppresso la popolazione algerina per anni, e da quando la rivoluzione poi ha portato all'indipendenza nel 1962. Diciamo che da allora c'è un forte rigetto per tutto ciò che è francese, però siamo anche in un momento storico molto interessante da questo punto di vista, perché si parla di decolonizzazione culturale in molti paesi ex colonie. Ecco, dopo questo sguardo generale, adesso concentriamoci sulla città di Algeri. Sì, allora il nome Algeri si traduce dall'arabo in l'isola e veniva usato per riferirsi alle quattro isole che formavano appunto la città. L'attuale Alger è stata fondata nel 944 da Bologhine ibn Ziri e divenne presto una città importante per il commercio spagnolo che portò all'espansione e alla crescita. Poi ci fu la conquista francese dell'Algeria che ebbe luogo tra il 1830 e il 1847. La città fa 1 milione di abitanti circa, ma non sono tutti ammassati, come avete capito, visto lo spazio enorme che hanno a disposizione. La città francese è molto bella ed elegante, con evidenti richiami ai palazzi di Parigi, ovviamente, e con finestre finemente lavorate, stuccate di bianco, con ampi viali e alberati e luminosi. Ecco, in questo quadro che cosa possiamo ancora dire un po' della vita, anche della cucina, della vita della città? Allora, quando si parla di certe aree del mondo non si deve dimenticare la Casbah, che è la parte più antica, di origine fenicia tra l'altro, e anche perché i primi insediamenti risalgono al 1200 a.C. Comunque è un posto molto vivace, ci sono queste viuzze tortuose, ti sembra di andare a finire in un'altra epoca. E poi tra l'altro ci sono zone, vicoletti piene di artigiani di ogni tipo, con piccole botteghe, falegnami, ciabattini, pasticceri, fabbri, e quindi si vive una vita frenetica in queste piccole stradine. E per quanto riguarda poi la cucina, bisogna ricordare che ci sono i piatti tipici arabi come il couscous, il meswi, le tagine, i ragù di carne, di pesce. Anche i vini locali sono molto buoni. E purtroppo non possiamo non ricordare che in questo mese l'Algeria è stata colpita da enormi incendi che hanno causato la morte di una settantina di persone, soprattutto in Kabilia. E sì, è stato un anno molto difficile, anche l'Algeria purtroppo ne ha pagato le conseguenze. E io devo dire che ascoltando il canale radiofonico dell'Algeria ho sentito delle testimonianze veramente drammatiche su questi incendi, quindi molto solidale con tutta la popolazione, a cui forse possiamo dedicare la prossima canzone. Assolutamente, la vogliamo dedicare a loro e anche a tutte le persone che ci hanno sostenuto per poter continuare anche d'estate le nostre trasmissioni. Mi riferisco nello specifico a Lucia Garagnani, a Elsa Ferraio, a Donatella e a Paola Cesca. Vi ringraziamo veramente tantissimo e vi dedichiamo una canzone di Suad Massi, che è una delle più famose cantanti e autrici della musica araba contemporanea, spesso paragonata a Joan Baez, per dire. E la canzone si chiama Enta Wena. A voi. وصلت للنهاية وما جبت حتى أخبار جتني ورد الحكاية ونقطة للصار تاوانا كالشمس والقمر الأول يتحرق والتاني العذاب شاد تاوانا كي النهار والليل كي يبان واحد تاني يدخل يرقد انت وانا كي الشمس والقمر الاول يتحرق والتاني العذاب شاهد انت وانا كي نهار يبان واحد تاني يدخل يرقود رسم على خدي وردة تخلي يدك ترسم فيها لا يمني كل ورقات للخريف احلى في يديها من شعري يدير حبال والجبال كي توصل ليها خليني نشوف لو نسمع وخلي سحاب تبكي عليها احتاج النفس صحرا حصان حر عربينا احنا موجة وجناح وش ممكن اللي يكفينا احنا كي تضيف الحشمان الحزن حلفت علينا كي طاح الليل فرشتنا سلاسل وربطت يدينا تاوانا كي الشمس والقمر الولي تحرق والتاني العذاب شهد انت وانا كي نهار والليل كي بين واحد تاني يدخل يرقد انت وانا كي الشمس والقمر الولي تحرق والتاني العذاب شهد انت Lasciamo Suad Massi per dare la parola a Caterina Bombarda che intervista Paolo Aleotti, giornalista Teleradio Reporter. A voi. Buongiorno a tutti, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Siamo qui con Paolo Aleotti, ospite su Eduradio TV, ma anche già stato ospite per i nostri buongiorni. Buongiorno Paolo e rieccoti. Buongiorno, buongiorno Caterina e buongiorno agli ascoltatori. Allora Paolo, tu per noi sei tante cose, e innanzitutto sei giornalista per la RAI dal 1968 e per 10 anni, dal 90 al 2000, sei stato corrispondente per gli Stati Uniti per il giornale radio e i TG della RAI. Ma sei anche documentarista, autore, tra i tanti che hai fatto ricordo I sogni dietro le sbarre, di cui ci hai già parlato, del 2015, che tu hai girato nel carcere di Bollate assieme ai detenuti. Tutto questo all'interno del progetto Teleradio Reporter, sempre a Bollate, che per noi di Eduradio è un po' un lume anche di ispirazione, quello che noi vorremmo fare con i detenuti del carcere della Dozza, ma anche di altre carceri dell'Emilia Romagna. Ma io ti chiedo, siccome queste nostre chiacchierate si protrarranno un po' per l'estate, vorrei chiederti quando è iniziato tutto, cioè quando hai messo per la prima volta i piedi dentro un carcere. Dunque... I piedi dentro un carcere li avevo già messi in Italia, ma sempre così un po' di sfuggita, a Porto Azzurro una volta e poi nel carcere di femminile di Venezia, ma erano state così delle piccole, come dire, avventure. La vera avventura l'ho avuta negli Stati Uniti quando mi è stato chiesto, lavoravo per il TG2, di andare in Texas, a Huntsville, a intervistare 4 condannati a morte che sarebbero stati giustiziati entro un mese. Io li ho intervistati tutti praticamente nello stesso giorno, quindi sono entrato in questo carcere di massimissima sicurezza, pazzesco, non prima di aver visitato la Old Sparks, che è la vecchia sedia elettrica che sta lì a monito e ormai a testimonianza di come si uccideva in passato, perché adesso invece si uccide con la iniezione letale. E quindi ho intervistato questi 4 condannati a morte. Devo dire che è stata una cosa potentissima, fortissima, che io veramente non mi aspettavo. E, esperienza questa delle 4 interviste, tostissime, che si è conclusa con l'attesa della morte del primo giustiziato fuori del penitenziario con tutta la gente che faceva la veglia notturna, cantava e tutto il resto, quindi tra virgolette diciamo anche suggestiva, ma in una maniera macabra e terribile insomma. Infatti volevo chiederti che impressioni ne hai tratto sia come Paolo lì giornalista ma anche come uomo da un'esperienza così violenta anche. Dico la verità che me lo chiedevo mentre ero lì e ho continuato a chiedermelo per tanto tempo, come ho resistito anche a parlare con delle persone che mi raccontavano con molta franchezza, guardandomi negli occhi, e io ero più io che avevo timore di guardarli negli occhi, non volevo offenderli, ferirli, c'era tra di noi un vetro e delle sbarre, però eravamo lì. La cosa che mi sono detto, che mi ha fatto resistere e pensare a fare l'intervista, a fare domande giuste e tutto il resto, è stato il fatto quasi di sentirmi sdoppiato, come dentro un film. Cioè ero lì, però ero lì come attore di qualcosa che stava avvenendo. Ecco, questa cosa mi ha dato una strana forza di non mettermi a piangere, di non disperarmi, di non arrabbiarmi, di non sbatacchiare mentre loro mi raccontavano la loro verità. Insomma, ecco, questo fatto di riuscire a, ad essere ancora anche un giornalista mentre ero anche un uomo colpito da tante emozioni. Paolo, è il momento di lanciare una canzone. Io, come al solito, lo chiedo all'ospite. Ah, allora... ti vorrei proporre questa canzone, questo rap che è stato preparato e cantato da uno dei due autori di un podcast famosissimo oggi negli Stati Uniti che si chiama Ear Hustle, cioè rumore nell'orecchio, ed è il podcast fatto da due ex carcerati del carcere di San Quentin in California, il più grande carcere californiano. Strong, come on, Philippe, Aldi, Catherine, Long. It's gonna take backbone, but it's needed in the leader. Come on, Griffin Riley, come on, Katie Peters. If life is but the teacher, then we all students. And today's lesson is that we all humans. This how I commend you. It takes the whole to fix the whole, and surely you contribute. This is just a gift I get to present you with honor. A thank you that's monumental. Thank you. Where will we be? Come on, man. Where will we be? Sit back and think. Who knew appreciation could run this deep? If we never speak, I get a chance to meet. It's a thank you from the Ear Hustle team. So thank you for everything. Thank you for everything. Truly. All right, man, let's do it like this. Look. All right, before I drop the mic, we gotta thank Amanda Aronoff and Alfred White, Kathy Margulies, Dig Me Like Gardening, Pam Tindall, Sarah Tisdale, pardon me, like hearts need arteries. You are now a part of me. You have been the blessing. Thank you for your offerings. And I'm just a man of candor, so thank you, Lindsay Cantor, JJ Panzer. Everybody stand up, Steffi McKenna. If we work together, then y'all secret centers. Together we can answer any question that evolved. For Maryland, worse, and we in Butch and Hall. Get involved, we prevailing. Tell them Deanna Cannon said, tell them John Helen. Thanks, Felix Ealing, we owe more than a favor to y'all, Bill Resnick and Laura Shoemaker. Christian Gamet and Steve Kaplan. Susan, I see you. McDonough was happening. Love them trying to package it and ship it out to all of y'all. Sophie Vanderputt and all of those is called upon. Love can never break up. Kirsten Lathrop and all the donors slept on. The world's about to wake up. Wake up. And this is all that I can offer. A sincere thank you. Michelle Lawford, Alan Pomerantz, Jeremy Marr. Your support got the team feeling stronger than armor. We wish the best karma on Camilo Ruiz. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro. Abbiamo come ospite Paola Leotti, giornalista, che ci sta raccontando un po' le origini della sua esperienza sia come giornalista, ma anche che ha toccato il carcere in qualche modo e con esperienza anche molto forte. Stavamo parlando dell'esperienza degli Stati Uniti, dove hai incontrato quattro condannati a morte, e che cosa ne hai tratto dopo nel tuo lavoro? Cioè, in qualche modo, la testimonianza di queste persone che tu hai raccolto tutte in un unico giorno è rimasta ai posteri per trasmettere un messaggio? Ecco, subito lì per lì la cosa che ho preso è stato questo fatto, la coscienza che certe cose esistono. Di solito noi le leggiamo, le vediamo nei film, ce le immaginiamo, ce le sogniamo sempre un po' distanti da noi. Lì io le ho potute quasi toccare con mano. Ecco, questa cosa lì per lì mi ha dato proprio una sensazione di essere dentro un evento, per cui, per esempio, è stato la prima volta in cui, facendo queste poi dirette dall'esterno del carcere, ero molto più dentro e quindi mi venivano più facilmente perché ero dentro, calato dentro una cosa che non credo mai che avrei potuto toccare con mano. In seguito, ovviamente, ne ho riparlato tante volte, ci ho pensato quando sono entrato nel carcere di Bollate per cominciare a fare il mio lavoro, diciamo così, di volontariato per insegnare a usare la radio e la televisione in carcere. E recentemente sono stato invitato da una trasmissione negli Stati Uniti proprio per riparlare di tutto questo, perché oggi la pena di morte negli Stati Uniti è molto calata. Oggi nell'opinione pubblica c'è il 50% della gente che vuole la pena di morte, in quei tempi era l'80%. Dunque, nel rivedere le interviste che avevo fatto, nel riconoscere che poi ognuno di loro era veramente uno diverso dall'altro, nel senso che c'era chi era un po' più determinista, determinato, diceva vabbè tanto, c'era chi reagiva, c'era chi mi dava delle cose da portare ai suoi amici, un giornale che aveva fatto, se mi ha chiesto ma potresti portare a loro. Ecco, pensando a tutto questo, mi è venuto in mente che veramente, come dire, mi sono reso conto che qualcosa esiste e che è qualcosa con la quale bisogna fare i conti, cioè la realtà. Quello che mi ha dato e quello che secondo me riesco oggi a trasmettere un po' di più è che la pena di morte non è solo una follia, non è solo sbagliata, ma è anche una cosa che esiste, che è reale e che persone normali come noi, come me, come te, possono parlarne essendo condannate a morte senza disperarsi troppo, senza, insomma, accettandola a loro volta. Quindi ecco, una sorta di accettazione di realtà difficilissime che esistono al mondo. Questo un po' è quello che mi ha insegnato quell'esperienza. Grazie Paolo, ritorneremo con te la prossima settimana e ora una canzone la lancio io, ispirata da te che hai appena lanciato qualcosa che parla di carcere. Allora io ti lancio Assia Fiorillo, Io sono te, una canzone che fa parte, pensa, della colonna sonora del documentario Rai Caine di Amalia De Simone ed è anche il finale contest Voci per la libertà di Amnesty International. Ascoltiamola, a presto. Arrivederci. Indossa le mie scarpe, vedi come si porta questo peso e prova a stare sempre in piedi. E se mi spoglio tu conta ferite e lividi che curerò. Sono la vita che scelsi e non li nascondo ma ricorderò. Io sono te, cresciuta nella mia famiglia. Io sono te, nel mio quartiere complicato. Io che ho creduto all'assenza dello Stato. Non l'ho cercato più, ma è lui che mi ha trovato. Io sono te, se a 9 anni sei già in strada. Io sono te, e dopo accada quel che accada. Io che correvo senza mai sentire il vento. L'amore in elemosina piangeva senza pianto. Cifre, siamo dei numeri sui fogli. Copia e incolla dei burocrati confonde vita e sbagli. Soldi, è questa la mia condanna. Comprare occhi riverenti è solo scorza che ti inganna. Ed eccoci di nuovo insieme per salutarci, perché la prima parte del nostro programma termina qui. E sapete che però le nostre rubriche ci sono sempre, ci sono durante tutta la settimana. Infatti potrete ascoltare oggi la rubrica dell'Equipe Sanitaria dedicata alla REMS di Bologna. Vi ricordiamo che il Buongiorno di Liberi Dentro va in onda da lunedì al venerdì su Radio Città Fugico, Teletricolore e Lepida TV. E le rubriche tutta la settimana. Un caro saluto da Antonella Cortese, Ignazio De Francesco, Caterina Bombarda e il nostro tecnico Enea Flacco. A domani. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.